Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, vertice 27 questo pomeriggio a Bruxelles. Fisco ed energia, i temi sul tavolo, al di là dei propositi, cioè quelli di rafforzare l'integrazione. Due elementi emergono: sono il desiderio di approvare entro fine anno una revisione della direttiva risparmio, il tentativo di dare una linea guida nel campo dello shale gas, che tanto sta sostenendo la ripresa economica americana. Il tema fiscale rischia però di essere messo in ombra anche dalla vicenda Apple, accusata di aver utilizzato il sistema fiscale irlandese per non pagare le tasse. Irlanda presidente di turno dell'Unione Europea. Insomma, quando si parla di fisco, l'Unione Europea fa, come in questo caso, proprio i conti al suo interno. Sull'evasione fiscale, ma anche sull'occupazione giovanile, è l'intervista che vi proponiamo, che Sergio Nava ha realizzato con il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani. Mi rendo conto della difficoltà per alcuni paesi a voler rendere più trasparenti i sistemi informativi, però è indispensabile fare questo se si vuole veramente colpire a fondo l'evasione fiscale, se si vuole impedire che i paradisi fiscali siano ancora uno strumento negativo che va a danno dei cittadini. I soldi recuperati dall'evasione fiscale e dai paradisi fiscali possono diventare anche un po' un tesoretto, se vogliamo, per andare a aggredire un altro problema enorme, che è quello della disoccupazione giovanile, che sta diventando veramente un bubbone in Europa. Si possono collegare in qualche modo le due problematiche? Più fondi ci sono nelle casse europee, più si possono utilizzare per la politica della crescita. Noi abbiamo già trovato 6 miliardi di euro nel bilancio comunitario contro la disoccupazione giovanile, e questo certamente è un colpo che noi vogliamo assestare alla crisi. E ne ho parlato anche a lungo l'altro ieri con il Presidente del Consiglio Letta, che credo che proprio quest'oggi anche al Consiglio farà ascoltare la voce dell'Italia. E questi i temi principali della giornata, ma si parla anche di Kosovo oggi a Bruxelles. Infatti è prevista una nuova tornata di trattative tra i premier di Serbia e Kosovo, Ivica Dačić e Hashim Thaci, con il capo della diplomazia europea Catherine Ashton. L'obiettivo è quello di raggiungere un'intesa sull'applicazione pratica dell'accordo raggiunto il 19 aprile scorso da Belgrado e Priština sulla normalizzazione dei loro rapporti, naturalmente con particolare riferimento alla situazione nel nord del Kosovo, a maggioranza serba. E ora parliamo di una buona notizia. Arrivano infatti per spiagge, laghi e fiume d'Europa. Sentiamo Flavio Ferragni dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Come dicevate, il bilancio è positivo ed è in linea con il trend in continuo miglioramento degli ultimi anni. Su 22.000 siti di balneazione, circa il 94% è risultato con qualità delle acque sufficienti. Di questi 22.000, il 78% registrano invece livelli di qualità eccellente. Ecco, balneazione significa mare, ma significa anche laghi e fiumi. Sì, le notizie sono buone anche su questo fronte. È vero che i luoghi di balneazioni interni, vengono così definiti nel rapporto, sono più delicati perché spesso le reti fognarie scaricano su fiumi e laghi. Ciò che si va a indagare a livello di qualità dell'acqua sono due batteri specifici, sono batteri fecali, e che quindi sono presenti nelle acque reflue, nelle reti fognarie e nei liquami provenienti da allevamenti principalmente. Questa dunque è la situazione complessiva che migliora. Vi segnalo però anche un sito, ionearth.org, ma lo ritrovate tranquillamente su radio24.it, un sito che, vi dicevo, vi permette di tenere d'occhio le vostre destinazioni di balneazione, quindi può essere utile in vista dell'estate. E ora l'appuntamento, il consiglio quotidiano di Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi presento la sesta edizione della Settimana della Gioventù, che sarà celebrata in tutta Europa dal 26 maggio al 2 giugno. In 33 paesi ci saranno seminari, convegni e incontri di approfondimento dedicati ai temi della cittadinanza attiva, della partecipazione alla società democratica e alle elezioni del Parlamento europeo del 2014. L'Agenzia Nazionale per i Giovani, che coordina in Italia il programma Gioventù in Azione, in cooperazione con la rete Eurodesk e gli uffici di rappresentanza della Commissione e del Parlamento europeo, ha organizzato più di 100 eventi culturali, formativi e artistici in ogni regione, come per esempio il seminario sulle opportunità di impiego in Europa, previsto a Vasto domani, o il corso per giovani imprenditori comunitari a Capo d'Orlando lunedì prossimo. L'intero programma lo si può consultare sul sito www.youthweek.it. E naturalmente su radio24.it siamo alla fine. Filippo Reggi in regia, Gigi Donnelli al microfono. Europa 24 torna domani come sempre alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.